Allora, buonasera a tutte e tutte. Questa è la seconda iniziativa di lancio dell'Università Popolare di ZAM. L'Università Popolare è un progetto che abbiamo lanciato quest'anno quando ci siamo trovati a riflettere sul fatto che, prima di tutto, la lotta di classe c'è, la stanno vincendo assolutamente le persone ricche, potenti di questo mondo, e che per affrontarla bisogna partire da questo punto di vista fondamentale, ci vogliono delle idee, ci vogliono dei concetti, delle teorie forti, conoscere anche come funziona questo mondo, nel senso di proprio di come funziona dalla fisica alla filosofia, alla scienza politica e la storia, come parleremo tra poco. C'è bisogno di conoscenza per riuscire a creare delle idee vincenti e vincere la lotta di classe, soprattutto partendo dalle idee. Nel senso che ci guardiamo intorno, ormai esiste soltanto il discorso della democrazia liberale, il libero mercato, bisogna andare a votare, quella è l'unica soluzione, non c'è nient'altro di possibile. E vediamo come in giro per il mondo comunque l'imperialismo e questo modo di vivere venga imposto a suon di missili, bombardamenti, stragi o qualsiasi altro tipo di cosa meravigliosa che fa il capitale in giro per il mondo. E quindi abbiamo capito che bisognava ricominciare dall'idea di educhiamoci, arriviamo alla conoscenza, diffondiamola per cercare di creare qualcosa di più bello e possibilmente magari anche un qualcosa che assomigli a una rivoluzione, un cambiamento fondamentale. Se volete iscrivervi all'Università Popolare trovate tutto sui social, c'è una mail che io non ricordo, che ti ricorda Miriam, però grande Miriam. Un attimo di introduzione, non so se si senta, credo di sì. Allora, beh, vedete che ci sono dei volantini lì, è un pochino un dépliant di cos'è l'Università Popolare, i corsi che ci sono con già le date, i programmi, e per iscriversi, se non avete voglia di mandare una mail, che ci sta, posso farlo io, nel senso mi dite il vostro nome, la vostra mail e a che corso volete iscrivervi e le mando io. Comunque i corsi sono tre e sono il corso di storia economica che inizia il 2 ottobre e fa proprio una panoramica sulla storia economica dalla rivoluzione industriale ad adesso. Poi un corso di storia della fisica che invece inizia la settimana, no, 2 settimane dopo, il 15 ottobre, che invece è la storia della fisica fatta in realtà in modo molto storico, raccontato, quindi da prima della fisica, la rivoluzione scientifica, la divisione dei saperi, fino a tutti i grandi sconvolgimenti della fisica contemporanea. E infine il corso di filosofia, che è un corso molto introduttivo alla filosofia, con avere un attimo una panoramica del lessico specifico, visto che a volte quando si parla di filosofia non si capisce niente perché le parole sono molto complicate, e quindi iniziare dalla nascita della filosofia, un po' anche come la filosofia antica è ancora contemporanea, e dare un pochino appunto gli strumenti per il secondo semestre, che faremo un corso di storia della filosofia un pochino più specifico sulla metafisica e la politica nel Seicento. Comunque, se volete, tutti i volantini sono lì e per iscriversi potete parlare con me. Baci. Grazie mia, meno male che c'è Miriam, fa le cose serie. Grande! Applausi, bello, io non per un cazzo, giustamente. Allora, vediamo noi, l'idea di queste due iniziative di lancio, di cui la prima fatta settimana scorsa, arriverà a regolare podcast sui canali di Radio ZM. Con il collettivo Off Topic che parlava dell'uso pubblico della città, cioè di come il potere struttura le nostre città per controllare o tendenzialmente sottrarre valore e soldi e portarli nelle tasche di poche persone. Oggi invece si parla di un altro uso pubblico, ma quello della storia, che ha tutt'altre dimensioni, tutt'altra impronta e importanza, con compagni del collettivo Lapsus e Davide del collettivo Cronache Ribelli. Io a questo punto faccio presentare voi un secondo, così mi riordino un attimo le idee nel cervello per fare la prima domanda, che se no non ce la faccio. Prego. Allora, buonasera a tutti e a tutte, a tutti. Noi siamo di Laboratorio Lapsus, non so se ci avete mai sentito, nel caso vi presento molto brevemente. Noi ci occupiamo di storia contemporanea, tendenzialmente. Siamo nati come un collettivo in statale ormai un bel po' di annetti fa. Siamo diventati un'associazione, oggi siamo un'associazione, operiamo principalmente su Milano, ci occupiamo, come dicevo, di storia contemporanea e nello specifico ci occupiamo di divulgazione, ricerca, didattica della storia contemporanea, ovvero ci occupiamo di utilizzare la storia contemporanea per interpretare in maniera critica il presente che ci circonda, quindi la storia per noi ha questa valenza. Facciamo sempre dei progetti che abbiano in qualche modo sempre un impatto con il pubblico, perché secondo noi la storia, così come ci dicevamo quando eravamo ancora in statale, anzi come si dicevano i colleghi perché io non c'ero, la storia non deve rimanere tra le mura dell'Accademia, dove spesso è diciamo fatta ma poi rimane lì. Invece per noi storia, appunto, arriviamo anche all'argomento dell'uso pubblico, è il suo uso pubblico, quindi deve stare in mezzo alle persone, quindi bisogna portarla tra la gente. Quindi nasciamo per questo, oramai sono tanti anni, e operiamo, come dicevo, su Milano. Seguiteci, cercate su Instagram, su Facebook, sulle varie social per vedere cosa facciamo tendenzialmente. Lascerei la parola a Davide. Va bene, allora intervengo anche io, presento un attimo quello che è Cronache Ribelli, che nasce come progetto di divulgazione storica a sua volta, però attivo sui social network, nato nel 2016 da un gruppo appunto comunque di laureati in materie storiche o discipline storico-politiche, che decide di fare un racconto della storia che passa attraverso i social e che si rivolga anche in questo caso, come diceva giustamente Lapsus, si rivolga a un pubblico che non sia quello chiuso dell'Accademia, ma che sia aperta insomma a tutte e tutti coloro che siano interessati alla storia del passato. Nasce sui social nel 2018, insomma un progetto che cresce tanto sui vari social network. Nel 2018 noi diventiamo un progetto editoriale con l'uscita del primo libro, che è l'Almanacco Cronache Ribelli. Da allora, facendola molto breve, ecco, abbiamo continuato la nostra attività sui social, adesso siamo a più di 30 libri pubblicati, continuiamo insomma a lavorare come un collettivo organizzato orizzontalmente, dove si decide tutto insieme, perché pensiamo anche la forma con cui si porta avanti il lavoro deve essere un po' coerente con le storie che si raccontano. Quindi continuiamo ancora oggi insomma a dare voce ad autori e autrici inediti con le loro tesi di laurea, a pubblicare la storia da un punto di vista insomma dal basso e via dicendo. Grazie mille, fantastico. Allora io andrei con la prima domanda, che ho scritto così bene tempo addietro che non me la ricordo più, quindi la leggo perché non sono in capacità. La storia è da sempre un terreno di conflitto. Chi controlla il racconto del tempo passato ha il potere di direzionare l'immaginario collettivo nel tempo presente e nel futuro, giustificando le condizioni dei rapporti di forza nella società. In che modo oggi viene usata la storia e per motivare quale narrazione nel discorso giornalistico e nell'ambito scientifico? Io, se ha voglia Davide di rispondere... Cioè, no, prego, vai. No, lasciamo rispondere Lapsus intanto su questo punto. Intanto funziona? Sì. Allora, prima di iniziare a rispondere esattamente a questa domanda, volevo fare i due minuti di introduzione un attimo per comprenderci, dato che quando parliamo magari di uso pubblico della storia, di storia, non è sempre immediato per chiunque cosa voglia dire esattamente e soprattutto cosa intenderemo noi questa sera. Quindi proprio ripassone velocissimo: quando parliamo di storia parliamo di tutta quanta quella disciplina scientifica che indaga il passato e facendo un'analisi critica delle fonti del passato e con un'interpretazione va a costruire una storia. Quindi quando noi parliamo di storia intendiamo questo, perché nell'utilizzo, cioè oggi questo specifico, perché nell'utilizzo quotidiano che utilizziamo anche della storia intendiamo storia in molti sensi. Può anche essere una fiaba, una favola, un racconto, una storia di vita di una persona. Quando invece lo utilizziamo inteso, come diciamo, l'accademico direbbe con la S maiuscola, intendiamo questa cosa qua. Quando parliamo di uso pubblico della storia, ci addentriamo invece in quello che è il suo, secondo noi il suo scopo, secondo molti il suo scopo, non secondo chiunque, ovvero il fatto che come qualsiasi scienza, come qualsiasi disciplina che cerca di studiare l'essere umano in qualsiasi modo, ha una funzione nel momento in cui ha un impatto su di noi, sulla collettività, sull'individuo, sulle comunità, a qualsiasi tipo di titolo. In sostanza nel momento in cui cerca di agire nel presente, risponde a delle domande del presente, cerca di agire nel presente. Di conseguenza l'uso pubblico della storia si interseca per forza di cose anche con la dimensione politica. Questa cosa qua è abbastanza inevitabile. Tutti quanti noi siamo soggetti che viviamo la nostra vita, chi più chi meno è interessato alla politica, ma chiunque in qualche maniera si interessa di politica e chiunque in qualche maniera quindi si orienta anche al passato, partendo da chi è lui adesso, chi è lei adesso. Quindi con uso pubblico della storia intendiamo questo. E l'uso pubblico della storia viene fatto a qualsiasi titolo, a qualsiasi livello, costantemente. Cioè anche il programma scolastico, il programma ministeriale che chiunque di noi ha studiato nelle scuole è un uso pubblico della storia perché risponde a determinate esigenze del contemporaneo. Che ci piacciono meno, nel senso. Quando invece parliamo di abuso pubblico della storia, intendiamo quando la narrazione inizia a essere distorta con determinati fini, tendenzialmente politici. L'abuso pubblico della storia, gli esempi, magari questa sera ne pensavamo di farne qualcuno, sono veramente un numero sterminato, e quindi si lega sì alla domanda del nostro Bongulli su che impatto ha nel presente questa cosa e... Posso rileggere la domanda, scusate, giusto per collegarmi meglio. Quando si parla di chi controlla il passato, controlla il presente, allora dal nostro punto di vista è un logico molto forte, cioè dire chi controlla il passato allora controlla il presente, forse è eccessiva come collegamento, però sicuramente una cosa è vera, il potere, quale che sia, trova sempre giustificazioni e argomenta sempre se stesso anche guardando al passato. Non esiste, non è in mente una sola narrazione statale senza che in qualche maniera costruisca una narrazione del passato che la vada a supportare. E questa cosa ovviamente si vede anche tantissimo a qualsiasi livello, nel senso la si vede nel momento in cui si dice la lotta di classe è stata vinta ma l'hanno vinta i padroni, quindi sì, ecco che arriva a supporto tutta quanta una narrazione di comodo per quello che accade. In questo senso la utilizza Israele ferocemente, l'abuso pubblico della storia che fa Israele è uno degli esempi più mastodontici che si vede, la utilizza la Russia di Putin, ma questi sono gli esempi più macroscopici, ma veramente la utilizza chiunque, in questo senso. E, di conseguenza, noi amiamo moltissimo citare uno di quelli che è stato il nostro maestro, Aldo Giannulli, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama L'abuso pubblico della storia, e, in cui lui ipotizza due... cioè, se quella che ho appena descritto, ovvero quando lo Stato costruisce una narrazione verso di sé... lui la definisce la storiografia del principe, rifacendosi al principe di Machiavelli, cioè alla rappresentazione plastica del potere, quindi una narrazione che ha uso e consumo del potere e funzionale al potere stesso. Quella che invece fanno le comunità, i collettivi, o insomma quella che si vorrebbe fare come società democratica, che punta ad avere invece una dimensione sociale, è quella invece della storiografia repubblicana, cioè cercare di contrastare la storiografia del principe raccontando una storia o delle storie che vadano invece a fomentare, ad argomentare... Sì, a rendere più complesso anche il presente. Esattamente. Ovviamente senza scadere nell'abuso, perché questo è una tentazione che ha chiunque, non soltanto il potere. Sì, io se ci sono posso aggiungere, quindi farei anche qualche esempio di uso pubblico della storia, partendo quindi e rimarcando il fatto che, speriamo che questo sia chiaro, quindi l'abuso pubblico della storia è quando si cerca di piegare alle esigenze del presente il passato in qualche modo, okay? Si rilegge il passato, si cerca di utilizzare qualche dinamica che appunto appartiene alla storia, ma legittimando il presente. Questa è una cosa che è talmente tanto sottile, che viene fatta tanto spesso, che a volte non ce ne accorgiamo. Veramente è una cosa che viene fatta molto spesso. Ma Zeno prima vi faceva alcuni esempi di uso pubblico della storia, e volevo riprendere un po' l'argomento che sicuramente avete sentito nominare, cioè di quelle proteste che sono nate nel 2020, quando eravamo felicemente in pandemia, visto che ne parlavamo prima, e non so se vi ricordate che ci fu l'omicidio di George Floyd, Ok, quell'esempio lì secondo noi spiega molto, molto bene come la storia sia il suo uso pubblico e come tutto quello che esce dall'Accademia poi abbia a che fare con noi. Vi ricordate, no? Questo, il 25 maggio in Minnesota viene ucciso quest'uomo, viene ucciso dalla polizia e si innescano subito queste proteste. Queste proteste che però sono delle proteste che inizialmente riguardano un abuso di potere della polizia. E invece poi pian piano iniziano ad avere a che fare con la rappresentazione delle statue, dei monumenti all'interno delle città, che hanno a che fare con il potere. Sembra qualcosa che non ha alcun collegamento. In realtà il collegamento c'è ed è molto forte. Cioè quelle rappresentazioni, quelle statue, riperpretano proprio quell'abuso di potere che c'è stato dalla parte della polizia. Perché proprio contro quella minoranza? Perché è così ripetuta questa cosa? E quindi questo percorso porta un po' in tutte le città a mettere in discussione alcuni simboli. Non so se vi ricordate, qua anche ci fu quello che c'è stato a Milano, qua Indro Montanelli, che venne. Non ne sappiamo niente di questa cosa. cioè, nel senso, è successo, so che è successo, volevano un po', appunto, come diceva Zeno, diamo un po' di complessità al personaggio, che secondo noi un po' di rosa gli dona. Però perché questa cosa? Perché viene presa la statua? Perché se ci pensate, la statua che per molti è stata subito un'alzata di scudi, ci sono sempre state, le statue sono una cosa che in qualche modo non dovrebbe offendere nessuno. Perché? Perché la statua, se ci pensate, è la più alta glorificazione civile che abbiamo noi, soprattutto dopo la costruzione dello Stato-Nazione del 8-900, e quindi cosa succede? Che la statua porta dei valori, che però sembrano dei valori che non ce ne accorgiamo, ma li porta, sono ben precisi. Cioè, quelle sono le statue che vengono scelte per essere raccontate. Sono statue tendenzialmente di uomini, sono statue di corpi abili, della classe dominante, tendenzialmente bianchi, anzi, da noi sono bianchi e basta, e etero, tendenzialmente. Cioè, questa è la nostra narrazione, ma non è una cosa... Non è qualcosa di non è qualcosa di naturale questo, è una scelta ben precisa. Chi l'ha fatta questa scelta? Ovviamente l'elite al potere. E quando quell'omicidio ha scatenato questa messa in discussione, ovviamente abbiamo cercato di cambiare questa dinamica. E questo ci fa capire bene quanto la storia sia sempre in mezzo a noi, quanto sia su uso pubblico la storia. Ok? Quando abbiamo cercato di rimuovere queste statue, hanno subito cercato di difenderle. Siamo sempre stati così, non dovete togliere questo canone, invece questo canone viene messo in discussione e questo in qualche modo ci porta a mettere in discussione i privilegi che ci sono nella società. Quindi chiuderei proprio con l'esempio invece dei corpi femminili che sono presenti nelle statue. Non so se sapete che a Milano e a Torino quante statue di donne ci sono? Sparo a caso, zero. Zero? One, dai, più o meno. Almeno una a Milano, beh, faccio più difficile, che non siano però delle sante. C'è Margherita che è statale, esatto, c'è Margherita che è statale, ma da 3 anni, 4 anni, quanti sono? Poco, dopo la pandemia. Dopo la pandemia? Neanche un anno? Grazie. Però quindi c'è, cioè, per una donna identificarsi, diciamo, in monumenti, in questo caso in una statua, a meno che tu non sia una santa, puoi solo avere Margherita, ok? Quindi per questo che secondo noi la storia può in questo modo essere anche sovversiva e deve riappropriarsi dello spazio pubblico. Io mi taccio, se no vado avanti a dire stupidaggini. Qualcosa, mi sentite bene, sì? Sì. Ok, no, è interessante, prima si faceva cenno anche magari alla scuola, no? Noi... ci fa sempre sorridere, noi siamo sui social da 8 anni e intanto la gente si sveglia, dico, ma voi siete parziali nel vostro modo di raccontare la storia. Noi rispondiamo, sì, non ci voleva molto, insomma, a capirlo. I libri di scuola sono parziali già magari nel momento stesso in cui non raccontano una storia a 360 gradi. Cioè nel momento in cui l'intero continente inizia a esistere con una conferenza con la quale poi si iniziava a dividere quello stesso continente da parte delle potenze coloniali, no? Facendo riferimento a Berlino, capisci che è una scelta è una scelta dichiarata, insomma, è una scelta comunque ideologica, e ovviamente magari i libri di testo delle medie possono essere, sono considerati, diciamo, magari, come dire, i più imparziali tra i libri di storia, quando ovviamente così non è. Noi diciamo abbiamo comunque voluto raccontare le storie dal basso di singoli che hanno fatto la storia, perché crediamo che raccontarle oggi sia anche un modo per evitarne la rimozione, cioè per tenerli in vita, per evitare che anche noi che dal basso facciamo la storia oggi un giorno non saremo rimossi. Penso che siamo, Zero e Simone hanno detto veramente le parole importanti, e ecco. Però è fondamentale partire appunto anche da questo concetto di parzialità, capire che l'imparzialità, quella che spesso viene sbandierata, come diceva Bisano giustamente prima, non è spesso è molto di facciata, ecco, non assolutamente concreta dal punto di vista storiografico storico. In realtà a questo punto inserisco una domanda che non c'era, ma questa è una mia curiosità personale, perché veramente non ci ho mai capito niente. Quando si parla di movimenti woke, cosa si intende? E perché tendenzialmente, se ho capito bene, ma ammetto di essere forse anche un po' disinteressato al dibattito, mi sembra che sia un termine che viene utilizzato da filotrampiani per dare addosso a chi invece sta, per esempio, nel Partito Democratico e caldeggia invece per un altro tipo di racconto della storia. Però era tanto per così, per parlare un attimo dell'attualità, già che vi ho qua vi sfrutto, questa è il sottolineato, se lo sapete me lo spiegate. Ma in realtà il discorso che diceva prima Zeno, no? Cioè il senso che la storia sia su uso pubblico, nel senso che tutte le discipline in realtà devono fare i conti con poi la società, anche la lingua allo stesso identico modo, allo stesso problema. Il termine woke, così come il termine cancel culture o questi termini che cercano di in qualche modo di fermare un po' il cambiamento, sono sintomatici di questa alzata di scudi di cui parlavo prima. Questo termine woke viene utilizzato oramai da qualche annetto, sì, effettivamente dalla destra, così come appunto il termine cancel culture che nasce in ambito universitario, proprio per far notare che ci sono questi cambiamenti, ok, in qualche modo. E quindi quando noi andiamo a toccare alcuni nervi che sono scoperti, abbiamo inevitabilmente una reazione, ok? Anzi, più questa cosa sembra che non sia importante in qualche modo, così come il linguaggio inclusivo, così come tutte quelle che sono delle accortezze che ci sono da qualche tempo, e se ne parla così tanto, vuol dire che è proprio lì dove il privilegio in qualche modo viene ad emergere e viene toccato molto da questo punto di vista. Volete aggiungere qualcosa? Se posso aggiungere, c'è anche un altro aspetto dell'attacco alla cosiddetta cultura woke. Io noto che spesso e volentieri, e proprio questa è una, ti fa capire come dalle parti da cui proviene quell'attacco, c'è una concezione appunto della storia che si muove solo dall'alto e mai dal basso. Io noto come questo attacco sia spesso molto violento, e anzi venga poi tacciato, no, di essere manovrato per tutti i movimenti che invece si sviluppano al contrario dal basso. Quindi se c'è un movimento dal basso per i diritti LGBTQ è perché è causa di una lobby, non perché c'è effettivamente una rivendicazione, no? Che dopo decenni comunque di lotte sta emergendo. Lo stesso, ma dire, non so, per le lotte, diciamo, ecologiste e via dicendo. Quindi si riduce, no, a questa manovra, a questa lobby, a questa macchinazione oscura, in realtà quello che poi il naturale processo di anni, decenni anche di lotte dal basso, che però non è concepibile che una lotta parta dal basso, capito? Perché se succede, se avanza, se prende consenso, se si fa vedere, se si fa sentire, sarà sicuramente a causa di un appoggio, insomma, no, dei poteri forti, che in realtà poi sono quelli che sono sempre stati, diciamo, ovviamente più ostili a certi cambiamenti. Cioè, faccio un esempio abbastanza pop per farvi capire cosa si intende per cultura woke. Tanti videogiochi ultimamente, tanti film hanno come protagonista una protagonista femminile o magari una tematica LGBT, quindi c'è subito l'alzata di scudi, questa è cultura woke. Noi per decenni, se non anche molto più tempo, abbiamo avuto soltanto protagonisti maschili, soltanto corpi maschili, soltanto, se non quello femminile invece era un corpo oggettificato, ok? E questa cosa per noi è la normalità. No, questa è una narrazione che è stato ben deciso di fare, e quindi questo cambiamento provoca degli scompensi inevitabili. Prego. No, micro, no, cioè, pensavi, bella lei, no. Allora, non c'entro con questa cosa della cultura woke, però stavo pensando a questa cosa di uso e abuso della storia. Se tu parli di uso e abuso, io immagino che ci sia dietro un'idea di storia in quanto scientifica e reale, per cui tu abusi qualcosa che è reale. E quindi mi chiedevo, è possibile parlare di storia in maniera neutrale, in maniera a 360 gradi? Cioè, come faccio a capire se sto abusando della storia? Come faccio invece a capire se è la mia lettura di una cosa? No, neutrale è impossibile. No, neutrale immagino sia impossibile, però insomma l'abuso vuol dire che c'è dietro, non lo so, dal punto di vista forse scientifico, io abuso di una cosa perché c'è una roba reale che è evidente e poi io la utilizzo in maniera sbagliata. Invece mi chiedono nella storia come faccio a capire invece, cioè, a che livello diventa abuso. E allora, la risposta che mi viene, ovviamente intervengono anche gli altri eventualmente, è la... è così, nel senso, ogni persona o gruppo di persone che lavora alla storia ha per forza di cose una visione parziale, è inevitabile, cioè è umano, okay, quindi questo è un dato di fatto, accettiamo questa cosa. Il metodo corretto è: io ho una visione del mondo che, se penso che stia influenzando il mio lavoro o che può influenzarmelo, io te lo dico. Ho delle fonti, le elenco tutte quante e ti spiego in che maniera le sto interpretando e perché secondo me questa qua è la spiegazione più convincente. Ok? Questo è il metodo corretto. Questa cosa qua ovviamente sarà parziale, entro certi limiti, probabilmente non sarà a 360 gradi, anche se magari uno dovrebbe cercare di... Però questa è la maniera corretta e ovviamente in teoria non è tanto il lavoro del singolo, dei singoli o dei singoli gruppi di lavoro, quanto poi tutto il dibattito che si sviluppa, che, da cui esce poi la storia con la S maiuscola. L'abuso invece cosa fa? Se ha una visione del mondo che sta influenzando il suo lavoro, non te lo dice. Fa un utilizzo delle fonti che è volutamente parziale. Estrapola dalle fonti qualcosa che è funzionale al suo discorso. È lì che diventa abuso, è quando l'abuso è proprio intellettualmente disonesto, ma non te lo sta dicendo, lo maschera. E quindi è su questa cosa qua che si basa. Quindi non è tanto sul fatto che magari a un certo punto uno che sembra abbia scritto una cosa che è pazzesca arriva a un'altra e dice: no, guarda, questa roba qua è criticabile perché è stata fuori una nuova fonte, questa tua interpretazione non convince, perché è lì, è normale, il lavoro scientifico funziona così. Altra cosa invece è uno scrive delle cose omettendone altre e le omette volontariamente e arriva l'altra che dice: tu queste cose qua le ho messe. E allora il discorso è diverso. Dai, se vuoi aggiungere qualcosa. Però sia stato insomma molto esaustivo sull'argomento. Perfetto, allora continuo con un'altra domanda sempre per Davide, poi ovviamente anche i compagni Lapsus vorrei che rispondessero. Con la prima domanda io volevo anche introdurre un po', diciamo, il discorso che giustamente si deve fare e ho maggior ragione oggi quando c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, una persona che faceva parte di gruppi neofascisti, cioè la revisione, il revisionismo storico era tale all'ordine del giorno, ma c'era anche da prima il governo Meloni, eccetera eccetera, che è un po' insomma mi pareva di averlo esplicitato abbastanza in formalese nell'incipit della domanda, cioè fare in modo che si raccontino certe cose della storia passata, i fascisti della seconda guerra mondiale che passano da essere assassini a persone che facevano politica e partigiani che passano dall'essere partigiani e creatori dello Stato costituzionale a persone che hanno ammazzato, fatto cose sbagliate, eccetera, è proprio quel tipo di uso della storia. Io volevo chiedere quindi a voi che di storia vi occupate, in questo momento in Italia qual è l'opera di revisionismo più grossa? Me la dico così, per tanti anni, soprattutto all'inizio ho iniziato a far parte di ZAM, ho scoperto quanto fosse falsa e finta la narrazione sugli anni di piombo e sul terrorismo in Italia. fatto teoricamente da gruppi di sinistra, e cioè la cosa più clamorosa, me la disse un professore all'università, quindi neanche un bolscevico di chissà quale provenienza, disse: ma se terrorismo vuol dire creare nella popolazione, nell'opinione pubblica, una paura tale da modificare il comportamento delle persone agendo atti di violenza in qualunque luogo contro obiettivi ignoti o tendenze, soltanto per far venire paura alle persone di poter morire da un giorno all'altro. Bene, le BR non hanno ferito mai nemmeno una persona che non fosse nei loro obiettivi e nelle loro scorte, e così hanno fatto la stragrande maggioranza dei armati in Italia. Quindi non è terrorismo. Finiamola di dire che era terrorismo. Non è terrorismo. E quindi ho detto: cazzo, vedi che bella azione di revisionismo storico. Chiunque, mia madre compresa, che quegli anni li ha vissuti e che quindi poteva saperlo bene, tra virgolette, perché non lo sapeva, perché ci viveva dentro, non è che aveva cognizione di tutto quello che accadeva, ma che viveva quegli anni e l'aveva, per fortuna, non toccato, ma visto, lei di quegli anni diceva c'era terrorismo. Quando in realtà poi, se parliamo di terrorismo delle Torri Gemelle, Charlie Hebdo o l'attacco al Bataclan, cioè non sono, per citare un film bellissimo, neanche lo stesso fottuto sport. E vabbè, è una cosa sugli anni di piombo. Grande classicone, da sempre, da quando vado alle medie, il modo in cui è tendenzialmente passato o cambiato l'interpretazione dei fatti e dei personaggi che hanno combattuto, vissuto il periodo della resistenza in Italia, seconda guerra mondiale. Si è passato dall'avere ancora i partigiani vivi che minacciavano anche di sparare ai fascisti ancora vivi, al fatto di dire che però dopo tutto hanno sbagliato, però i fascisti avevano ragione, quando non addirittura essere d'accordo, la giornata delle foibe, tutte le altre minchiate varie. Oppure ancora c'è stata una stagione che adesso forse è un pochino conclusa, non è più tanto in hype, però c'è stato anche un fortissimo movimento di revisionismo storico sul risorgimento, sull'unità d'Italia, se pensiamo a tutto quello che è in meridione, la lotta, tutto il pensiero non borbonico, eccetera. Quindi adesso taglio corto, l'ho fatta fin troppo lunga. Secondo voi qual è la cosa su cui si sta facendo più revisionismo storico? Ma magari sono anche cose che io, per esempio, ho toccato, tipo le lotte operaie, cioè completamente cancellate, non sono mai esistite, non si è mai fatto lotta politica in Italia, siamo sempre stati tutti e tutte d'accordo, continuiamo a essere tutti e tutte d'accordo, perché è quello che ci serve per andare in avanti. Non so, se Davide vuole iniziare a rispondere, poi... Allora, ti ringrazio, in realtà che ho toccato vari punti. Noi ovviamente penso ci siamo occupati molto approfonditamente della questione della resistenza, mi fa piacere che hai anche menzionato il risorgimento, perché poi ci arriveremo, noi faremo capire come il processo di revisionismo storico non è inventarsi una notizia, diciamo, poco vera, poco attendibile, spingere. È un processo anche raffinato e che affonda le radici ovviamente in molti anni addietro. Allora, la resistenza, come si è arrivati a questo punto? Beh, si è arrivati a guerra ancora in corso, nel senso che inizia la resistenza, si formano le brigate partigiane. Queste brigate avevano una composizione insomma molto variegata, più o meno apprezzata, diciamo, da quello che sarebbe stato poi l'assetto politico successivo al 45. Senza dare più troppo nel dettaglio, noi avevamo brigate comuniste con maggioranza comunista capeggiata da anarchici, avevamo brigate completamente anarchiche, avevamo un movimento che era accomunato da una cosa fondamentale, che era appunto la necessità di abbattere il fascismo. All'interno di questa galassia in realtà vi era una critica, un attacco a determinate strutture che non erano proprie soltanto dell'Italia fascista, ma che affondavano le radici anche nell'Italia liberale, cioè anche nell'Italia precedente, insomma, la marcia su Roma, la presa del potere da parte di Mussolini. Un attacco anche all'autoritarismo, alla concezione verticale. Molti dei partigiani erano stati soldati del Regio Esercito che ne rifiutarono le strutture, specifichiamo una grande parte, poi c'erano, diciamo, le brigate, quelle come definiscono blu, insomma, più badogliane o più, diciamo, vicine al Regno del Sud, che erano, insomma, mantenevano una struttura più militarizzata, ma ci furono tante brigate partigiani in cui vi era un'organizzazione anche militare che, volendo fare un paragone molto con le pinze, quasi quasi ricordava quello delle Peghedelle, cioè in Kurdistan, nel senso c'era una obbedienza a un capo militare in battaglia, che però era sempre messo in discussione, che però era quello che si fermava, no, per coprire la ritirata dei compagni. Noi abbiamo scritto un po' di anni fa Partigiani Contro, questo libro sulla resistenza, in cui abbiamo proprio voluto analizzare la memoria, l'abbiamo diviso in due, poi una parte più saggistica e una parte di tante storie di commissari politici che si sacrificavano per esempio per garantire i loro compagni la fuga. Parliamo di questo tipo di realtà, si mettevano in discussione anche le strutture di genere, basti pensare insomma al ruolo che le partigiane ebbero nella guerra, non solo nel classico, no? Stereotipo della staffetta, ma poi anche in combattimento ebbero un ruolo fondamentale. Tutto questo per dire cosa? Che a un certo punto questa carica rivoluzionaria che era insita nella resistenza, il nazifascismo viene sconfitto, si passa a una struttura, si ritorna a un periodo di pace in cui si strutturava il potere futuro, questa carica andava disinnescata, per cui si inizia a fare un'operazione, già ancora guerra in corso in realtà, in cui appunto si spegne questa miccia della resistenza, e per tranquillizzare una classe più che politica, proprio anche imprenditoriale, industriale, no? Che poi era stata la stessa, e questo è un altro punto fondamentale, che aveva fatto nascere il fascismo. Cioè, nella narrazione, come è stata fatta, e parliamo già della narrazione antifascista classica del secondo dopoguerra, senza andare a scomodare quella del MSI, post-fascisti, via dicendo. Fondamentalmente si legava, si vedeva il fascismo come un fungo. Il fascismo era nato dal nulla. Cioè, a un certo punto questi qua si sono svegliati e si trovano i fascisti a Roma che governano tutti. Cioè, erano quattro gatti nel 19 e hanno preso il potere perché erano cattivissimi, fortissimi, incredibili, non si sa perché. Il fascismo, questo poi è il nodo cruciale, il biennio che va dal 1919 al 1921, dove l'Italia è impoverita dalla prima guerra mondiale, massacrata, che aveva visto insomma un'intera generazione andare a morire nel nord-est, inizia a reclamare qualcosa, inizia a dire: noi adesso abbiamo buttato il sangue, vogliamo di più. Iniziano le occupazioni, no? Crescono i partiti socialisti e il neonato partito comunista, e questa classe, che era la stessa che dalla guerra si era arricchita in maniera spaventosa, era già ricca ed era diventata ancora più ricca, si vede minacciata e decide di chiedere aiuto. A chi lo chiede? A questo piccolo movimento fondato da un ex socialista, tale Benito Mussolini, che fondamentalmente è gente non particolarmente capace, ma brava a menare le mani e a terrorizzare. Quindi iniziano gli assalti alle case del popolo, iniziano gli omicidi dei sindacalisti, si mettono al servizio e si dice: ci siamo noi ora, ci siamo noi e garantiamo questo tipo di ordine. Questa classe sempre economica, diciamo, che utilizza il fascismo, poi ha un rapporto, insomma, se ne si integra col fascismo stesso, cresce. A un certo punto arriva, insomma, domina l'Italia fino al 43, il fascismo cade e, diciamo, arriva l'odore di che forse non conviene più tanto essere fascisti. Quindi compiono quest'arco, poi la guerra, insomma, finisce anche grazie all'apporto della resistenza, e per farla molto breve, insomma, nel 45 loro si ritrovano, insomma, poi popolando soprattutto la Democrazia Cristiana, i vari partiti liberali e via dicendo, come questa nuova classe imprenditoriale, nulla, che non lo sapeva che c'era stato il fascismo, insomma, si ritrova lì, si ritrova ancora più ricca di prima. Questo, tornando alla domanda di prima, l'uso pubblico della storia, vorrei fare alcuni esempi. C'è una storia che noi raccontiamo in Partigiani Contro, che secondo me è incredibile, che fa capire come è stata sfruttata la memoria della resistenza nel secondo dopoguerra. Clara Marchetto è un personaggio che conoscono pochissime persone. Era una maestra trentina. Prima di dirvi quello che fece durante la guerra, vi faccio una parentesi. Lei fine anni 40 fu candidata con il Partito del Popolo Tirolese Trentino, che era un partito tipo cristiano sociale, cioè non era una bolscevica, insomma, in peritura o chissà che. Giusto per inquadrare il personaggio, lei, ferma antifascista, riuscì a entrare in contatto con i servizi segreti francesi, prima ovviamente della debacle francese, per dargli i piani, insomma, di una corazzata che stava costruendo, della corazzata del coro, mi sembra, che stava costruendo il regime fascista. Venne scoperta dall'Ovra e mandata, insomma, in carcere. Bene. Poi c'è il 43, lei viene liberata, eccetera, eccetera, finisce la guerra, inizia a fare politica, perché, insomma, con questo piccolo partito trentino. Lei venne indagata e processata perché durante la guerra, col regime fascista ancora saldo al potere, aveva contribuito ad abbatterlo, insomma, da chi venne processata e accusata da vari democristiani liberali, perché appunto aveva compiuto un atto contro l'Italia, ossia era legittima, ogni gesto di resistenza era legittimo contro il fascismo solo se posto il 43, quindi solo se inserito nell'arco della resistenza che era stata riconosciuta e approvata. Ogni gesto precedente era quasi, come dire, era destabilizzato, era ancora perseguito. Pensiamo poi a Belgrado Pedrini, no? Altro antifascista che a Carrara sparò a dei poliziotti fascisti e venne condannato, rimase in carcere fino agli inizi degli anni 70. Clara Marchetto venne esiliata, morì nell'82, tornò in Italia a fine anni 70. Cioè stiamo parlando di uno Stato nato, che dice di essere nato dalle ceneri della resistenza, che in realtà si adoperò attivamente per processare, capito, questi, diciamo, partigiani e partigiane poco eterodossi. Tutto questo per dire cosa? Il fascismo viene, infatti ringrazio appunto per aver tirato in mezzo anche il Risorgimento, viene messo come un po' un errore, no, nella storia d'Italia, una cosa uscita per caso, come il fondo che dicevamo prima, e quindi al contrario a riscattare questo errore a cui viene la resistenza, che viene legata addirittura alle guerre risorgimentali, no? Una nuova guerra di indipendenza. Molti siti istituzionali, no, che ricordano i partigiani, se voi vedete le varie biografie, finiscono tutti questi partigiani muoiono dicendo viva l'Italia, viva la patria. In realtà no, non fu così. Molti di loro avevano un atteggiamento sicuramente non prettamente nazionalista, anzi comunque vedevano una soluzione di continuità tra l'Italia, no? E questo tipo di tra l'Italia, insomma, istituzionale, quasi anche il fascismo. È rimasto sempre stile. Questo per dire che appunto l'Italia che è nata dalla resistenza non era sicuramente l'Italia che volevano tutti i partigiani, probabilmente non è neanche l'Italia che volevano gran parte dei partigiani. Posso invece dire, il sottolineare questo punto, che noi siamo una Repubblica nata dalla resistenza, ha prestato il fianco poi in un paese che continua a essere classista, fascista, che reprime violentemente, no, ogni forma di dissenso, diciamo. È ovvio, è l'Italia che hanno voluto i partigiani, ma non è vero. Questo dimostra, no, come la costruzione della storia è riuscita a indebolire una storia forte, invece era carica veramente di un impeto rivoluzionario come quello della resistenza. Non so se vuole, per la parte più anni di piombo, vogliono parlare della sti lapsus, che probabilmente sono più... Allora io faccio il turno pedante che mi sono preso questa sera, no, giusto per fare un piccolissimo inciso sulla parola revisionismo. La parola revisionismo in realtà in ambito scientifico è utilizzata in senso neutro, okay, non ha né connotazione né positiva né negativa, anche perché spessissimo viene fatta revisione di quello che è stato scritto in passato in senso positivo, nel senso di avanzamento. E il termine revisionismo in senso nel linguaggio pubblico connotato negativamente è figlio di tutto quanto questo dibattito che è stato fatto negli anni 80, soprattutto tra gli storici tedeschi, dibattito che poi scientificamente è uscito, cioè i revisionisti di quell'epoca sono usciti scientificamente tendenzialmente a pezzi, nel senso che l'Accademia, il dibattito non ha mai preso in considerazione più di tanto le istanze che erano da loro, ma pubblicamente ha vinto, perché era tutta quanta, cioè una bella fetta di revisionisti tedeschi degli anni 80 erano coloro, e penso che suonerà familiare, che sostenevano sostanzialmente che il nazismo non ha fatto nulla di così tanto grave, in quanto in quel periodo lì un altro entità molto grossa faceva di peggio, che era l'Unione Sovietica. Questa cosa qua è sostanzialmente semisdoganata nel dibattito pubblico, è una cosa che si sente a più non posso. Quindi il termine revisionista in senso negativo di destra è una cosa che arriva da quel periodo, ma in ambito scientifico è utilizzato ancora in senso neutro. Per quanto riguarda la domanda di Gulli, nel senso su che cosa fa più revisionismo in senso negativo il governo attuale, sulla resistenza agli anni di piombo, è una bellissima domanda, perché sicuramente se i governi precedenti si erano concentrati moltissimo, cioè fin dai governi Berlusconi, sul revisionismo del tema della resistenza, quindi tutto il discorso delle foibe, il giorno del ricordo, Il tema dell'equiparazione, tutti quanti vittime, tutti colpevoli, partigiani cattivi, eccetera, eccetera. Questo governo è invece che ha il partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, è erede storico del Movimento Sociale Italiano, ha all'interno tutta quella componente dei terroristi, sì, dell'estrema destra, del terrorismo stragista dell'estrema destra. E su loro, beh, il revisionismo che stanno facendo su quel periodo è fortissimo, cioè fino ad arrivare a Fratelli d'Italia che dopo che, se non sbaglio, aveva preso il governo, hanno dedicato una sede a Pino Rauti, cioè Pino Rauti era uno degli uomini che faceva, diciamo, ponte tra il Movimento Sociale Italiano e Ordine Nuovo, l'organizzazione responsabile di Piazza Fontana e di diverse altre stragi, la strage della tensione. E quindi su quello loro, devo dire, stanno facendo un bell'assalto. Per cui non so dire dove è peggio, ma sicuramente l'urto da quel punto di vista lì, del periodo degli anni di piombo, degli anni 70, con questo governo si sta sentendo fortissimo. E diciamo ha fatto un passaggio in più rispetto a quello che era la narrativa precedente fortissima, che è quella che sosteneva il periodo generico di questo periodo degli anni di piombo, questo periodo connotato lugubre, connotato super negativamente, in cui c'è questo terrorismo ovunque in lungo e in largo. Però alla fine, quando si parla di terroristi, si parla alla fine sempre delle formazioni armate dell'estrema sinistra. E chiudo, magari giusto sempre stando un attimo su questo significato delle parole. Il terrorismo è una parola ambigua, scivolosa. Non è un caso che non esista una definizione internazionale di terrorismo. Cioè, l'ONU, ad esempio, o nel diritto internazionale, non esiste una definizione univoca di terrorismo. Il motivo è semplicissimo: i principali attori del terrorismo internazionale da sempre sono gli stati. Da sempre, se intendiamo terrorismo come l'idea di terrorizzare la popolazione, cioè stando all'interno di questa cosa, Israele, che è la prova dello Stato, proprio come dovrebbe essere uno Stato, lo Stato terrorista, assolutamente sì. Però la definizione di terrorismo cambia tanto, nel senso che, ad esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, i bombardamenti strategici, che erano quelli in cui i piloti bombardavano, i bombardieri andavano a bombardare le città, avendo anche come obiettivo la popolazione civile, gli inglesi chiamavano tra di loro i soldati, gli aviatori, li chiamavano bombardamenti terroristici, perché la connotazione di terrorismo non aveva ancora quella valenza così tanto negativa che gli diamo adesso. Era un'arma di guerra. Anche alcuni partigiani definivano alcune delle loro azioni terroristiche. Quindi, per dire che è una parola che è cambiata costantemente ed è super ambigua, però tendenzialmente è una parola a uso e consumo moltissimo del potere. Quindi i terroristi sono sempre quelli che non ci piacciono a noi. Quelli che ci piacciono, no, non è terrorismo, è un'azione militare, cos'altro potevano fare, mai visto cosa hanno fatto loro, eccetera, eccetera. Abbastanza affascinante come discussione verso il terrorismo, potrebbe dedicargli qualche ora. Va bene, allora, pensando a questo dibattito, a un certo punto mi ha poi esploso il cervello e ho iniziato a pensare a questa cosa, soprattutto perché in due conflitti in corso in due aree del mondo dove la storia ha molto peso, cioè in un caso la Palestina, tutto il conflitto nasce da una storia raccontata in un libro che racconta che secondo autori ignoti datati in Grecia intorno al 60 avanti Cristo, dopo Cristo, ma anche prima in realtà, perché l'Antico Testamento è molto più vecchio, teoricamente la zona dove dovrebbero vivere gli ebrei dovrebbe essere compresa tra Mar Mediterraneo e Fiume Giordano. Ed è una storia raccontata in un libro che non è scientifico per niente, non ci sono le prove scientifiche di un solo regno israeliano nella zona compresa dalla Palestina, compresa tra il Mediterraneo e Fiume Giordano. Questo è per dire delle nozioni di storia vera. E lì ed anche in Ucraina, dove con tutta la narrazione della Russia che ancora tira fuori sempre il grande vestito della cerimonia del 9 maggio dovrebbe essere la cerimonia della vittoria sulla Germania nazista, per giustificare l'invasione dell'Ucraina, o tutto il libro scritto da Putin e fatto uscire in tempo record subito all'inizio dell'operazione militare speciale, per raccontare di come in realtà l'Ucraina non esiste, è stata un'invenzione occidentale alla fine dell'Unione Sovietica, perché in realtà l'Ucraina è Russia, appunto. Poi ci sono storie divertentissime sulle bombe nucleari che vengono spostate dall'Ucraina in Russia perché stava nascendo lo Stato ucraino e non volevano lasciargli delle testate atomiche, ma vabbè. La domanda è questa: in questi luoghi ci sono guerre e sono motivate con la storia, ci sono conflitti e sono motivati con la storia. Salto quantico, che forse potrebbe anche non vuol dire niente, che è una mia invenzione, qui in Italia non abbiamo conflitti sociali perché non abbiamo storia. Abbiamo assopito la nostra storia, chi è al governo non vuole fare altro che far dimenticare parte della storia o modificare l'altra per fare in modo che si venga equiparati e si ottenga alla fine pace. Cioè più nessuno che venga a dirci che sbagliamo in virtù di una storia che racconta che noi siamo gli eredi di quelli che uccisero, portarono l'Italia in guerra, devastarono il paese e tutto il resto. Insomma, per farla corta, senza storia non c'è conflitto? E per creare conflitto ci vuole la conoscenza della storia? Avete qualche ora per rispondere. Se volete, vedo anche Davide, ma siete atterrito a casa. Prego, prego. Insomma, metto lì. No, prego, ora lascio, insomma, prima a Zara. Gentile, che cortese. Prego, potete pure. Se abbiamo qualche ora per pensarci, sì, ti rispondiamo. Però mandate per tempo, andiamo per... sapevate quello che chiedevo. Allora, io inizierei da un discorso in realtà un po' più cinico, cioè in realtà la storia è da sempre utilizzata per giustificare dei conflitti, se ci pensiamo, se pensiamo solo, senza esagerare, andare troppo indietro, ma dalla nascita, come dicevo prima, dello Stato-Nazione, dalla fine dell'Ottocento ad oggi, se ci pensate, tutti i conflitti che abbiamo vissuto, e sono tanti, hanno in qualche modo, si sono legittimati in qualche modo con la storia, cioè in qualche modo, come tu hai detto prima, ma in Ucraina lì prima c'era l'idea, è nata l'idea di Russia, quindi l'Ucraina non è mai esistita, cioè, possiamo dire quindi che la storia ci sia ancora, sia molto presente. Per quanto riguarda il fatto che non ci siano conflitti interni, invece la mia visione è un po' una visione mia personale, quindi se si discostano i ragazzi va benissimo. Non è una questione che riguarda la storia, cioè è una questione, per citare il buon Barbero che dice la lotta di classe c'è stata, l'hanno vinta i ricchi, è una questione puramente economica, del sistema economico in cui siamo immersi, e anche grazie alla globalizzazione questo capitalismo spinto alle estreme conseguenze da questo neoliberismo, diciamo, ha portato a una parcellizzazione del lavoro talmente tanto esasperante, e anche una divisione nostra interna degli ordini sociali, che non abbiamo più coscienza di classe, e senza la coscienza di classe è molto difficile fare un conflitto. Cioè io non so, e se, essendo così parcellizzato nel lavoro, nella vita privata, in tutti quegli ambiti che prima aveva qualche senso, ce l'avevano, come faccio a lottare? Cioè non è tanto una questione di storia, io posso anche sentirmi italiano, ma poi mi mancano le basi per combattere. Ma quindi, cioè, secondo te, se per coscienza di classe definiamo come le persone percepiscono la propria identità e il rapporto ai rapporti economici che hanno sul posto di lavoro, semplicemente nella produzione del valore, cioè conoscere la propria storia non è così tanto importante. Potremmo anche essere, tra virgolette, nello stato in cui siamo adesso, che non siamo senza storia, ma il fatto di avere, di ricordarsi da dove si viene, cosa è successo prima, chi ha fatto le leggi, veramente banale, oggi in cantiere parlavo con dei colleghi, un collega che mi ha ricordato, un ragazzo albanese che è venuto in Italia negli anni 90, quindi c'è neanche uno nato qua che ha fatto le scuole qua, che ha ricordato che i governi che hanno distrutto l'Italia sono stati Berlusconi e Prodi. A me è venuto in mente che effettivamente, cioè, la precarietà l'ha votato un governo di sinistra, il Jobs Act l'ha fatto un governo di sinistra. Vabbè, questo è per togliere, cioè, non so, mi sembrava calzante la cosa. Cioè, ricordarsi chi è che ti ha messo in quella condizione non è così importante per creare un'identità e quindi la voglia di lottare contro chi, gli eredi di chi ti ha messo in quella condizione, o chi, quando è ancora vivo, ti ha messo in quella condizione. Cioè, il peso della storia, tu dici, è relativo. C'è molto di più, come sono veramente, come mi percepisco io. Allora, proprio facendo anche un discorso un po' marxista, nel senso del, anche banalmente, cioè riprendo veramente un po' un classico, però andare a combattere nella seconda guerra mondiale non aveva senso. Perché non ha senso combattere nella seconda guerra mondiale? Perché è una guerra che combattono tendenzialmente le classi dominanti, cioè si combatte per le classi dominanti, ma le combattiamo noi. Cosa diceva in quel momento la visione marxista? Io, che sono operaio, ho più in comune, sono operaio tedesco, ho più in comune con prima guerra mondiale, si sto esagerando, con più in comune con un operaio francese che con il padrone tedesco. Quindi la storia, dal punto di vista, secondo me, ha un po' meno senso in questo discorso. E, a meno che Davide non volesse andare, io avevo un ragionamento. Allora, secondo me, è una domanda difficile, perché secondo me la vera domanda è: cosa muove le persone alla fine? Cioè, io penso che i contadini nel Medioevo, a un certo punto, incazzati neri con il nobile di turno, si alzavano, marciavano e gli bruciavano il castello, non penso che conoscessero la storia del passato. E probabilmente era, non penso neanche sapessero leggere e scrivere. Secondo me magari invece sì, la consapevolezza ce l'avevano invece della loro classe e del fatto che in quel momento lì il nobile di turno era chi li stava vessando. E quindi, insomma, si andava a bruciare il castello. Bruciargli la casa. Esatto, citando sempre il sogno. Però, quindi forse il discorso, se devo andare a fare un ragionamento su adesso, è: la storia serve per mobilitare? Mi da dire no, non per forza. Cioè, sinceramente, adesso rispondo sinceramente, non penso proprio che i contadini del Medioevo, esempio X del gruppo di contadini in Francia nel Medioevo che vanno a bruciare il castello, avessero alcuna idea della storia e probabilmente anzi rappresentavano quelle persone che pensavano che Cristo fosse morto da poco e che gli ebrei l'avessero ucciso. E magari erano passati 800 anni. Quindi il discorso poi qui diventa il che cos'è che muove. Probabilmente in una società come la nostra, che è ben più stratificata, complessa e tendenzialmente con un livello di istruzione medio-alto, altissimo rispetto a quello che è stato diffuso tendenzialmente nella storia, nelle masse umane, probabilmente la storia sì diventa uno degli strumenti che può aiutare a creare coscienza, quantomeno a dare consapevolezza. Il discorso di storia magistra vite è sempre molto scivoloso, nel senso non è che ci crediamo moltissimo, però il discorso della storia è un modo per conoscere, per comprendere l'essere umano e capire che determinate scelte, determinate azioni ottengono determinati risultati, e questo sì è una bella potenza che ha. Cioè, se vai a studiare i movimenti del passato e magari davanti a studente disilluso X che non ha un'idea del fatto che scendere in piazza ha una potenza, e se le cose diventano di massa, se si insiste eccetera eccetera, qualcosa succede. Non è detto che vada esattamente nella maniera in cui te la immagini, anzi questa cosa qua magari mai, ma le cose, se ci si muove, le cose capitano. Questa è sicuramente una cosa che la storia può insegnare, mettiamola così. Davide, illuminati. No, è chiaro, noi abbiamo raccontato insomma tanti episodi in cui abbiamo provato insomma a dire che la ribellione dal basso, cioè a mostrare come ci sia stata, non negli anni, anche una reazione violenta insomma dal basso. Noto una cosa molto curiosa: quando si racconta appunto c'è molta più empatia quasi quando si racconta un episodio di violenza che va dal basso verso l'alto che non uno che va dall'alto verso il basso. Quindi Barbara Beccaris che spara sul popolo a Milano praticamente provoca meno emozione della Pora Sissi, per dirlo, proprio mettere un termine molto molto bello. Cioè, si è riusciti in un'operazione comunque, e questo ovviamente che si è perfezionata col capitalismo liberista negli ultimi 30 anni, anche 40, di appiattire il discorso, insomma, e di dare quel tipo di illusione, appunto, che viviamo nel migliore dei mondi possibile, che forse al massimo ci sforziamo per mantenerlo più o meno dove siamo. Questo ovviamente figlio di altri fattori, come può essere stata la fine del socialismo reale e via dicendo. Però è stato secondo me un'azione fatta a tavolino, riuscita con la creazione di un preciso immaginario del discorso, capito, dell'impegno personale, tutto, insomma, l'evoluzione 4.0, insomma, del capitalismo dall'affermarsi comunque soprattutto del neoliberismo, quindi, insomma, a partire dalla metà degli anni 80 in poi. Però è un altro discorso che se iniziamo letteralmente fino a domani alle 6, quindi ecco. Però vale la pena sottolineare il lavoro culturale che è stato fatto, no? Il lavoro veramente di che ha un po' spento quel tipo di narrativa che poteva funzionare negli anni 60 e 70, e ovviamente ribadisco la mancanza poi di un'alternativa, per quanto poi fallace, per quanto ovviamente vista da un altro punto di vista altrettanto a volte violenta, sfruttatrice del capitalismo più becero, ha troncato un po' questo tipo di discorso. Rimane, faccio un attimo magari un salto anche a un discorso successivo, da secondo noi conoscere non solamente a livello storico, comunque a livello politico, tutte le esperienze che in realtà oggi ci mostrano come è possibile superare, no? Anche le rivoluzioni difettose del passato, ce ne sono pochi esempi, ma ecco, penso che comunque l'esperimento della Siria del Nord-Est, lo zapatismo buono, possano aiutare a plasmare quantomeno una tensione, no? Una tensione, un orizzonte, per quanto fallace, che ci potrebbe aiutare a muoverti in un futuro non so dire quanto prossimo. Beh, io faccio domande banali perché non mi sono mai trovata in una situazione del genere, quindi dico, allora le lancio tutte le minchiate che penso. No, stavo pensando a questo tema della disillusione, per cui si vede, almeno questo che percepisco io, che magari è una minchiata, però ha sempre una maggiore disillusione nell'età giovanile, nell'adolescenza, rispetto alla lotta di classe, rispetto allo scendere in piazza, rispetto al desiderio di cose diverse. Nella idea che mi sono sempre fatta io è che nel momento in cui una società risponde a dei bisogni esistenziali in maniera maggioritaria, per cui abbiamo di più rispetto che nel Medioevo, ti cala un po' il bisogno di volere qualcosa in più. Però mi chiedo, è così, non lo so. Cioè, cos'è che fa sì che c'è questa disillusione, questo interesse minore rispetto a questa situazione? Perché non c'è più un nemico così ampio come ce l'avevamo prima, o per società? Non lo so. Allora, io prima faccio mia colpa se ho dato da intendere che diciamo nel Medioevo c'era più motivo di incazzarsi rispetto adesso rispetto a condizione, scusate, no, non volevo assolutamente dire questo. Cioè, la disillusione adesso secondo me è arrivata per cause storiche, però ecco, anche qua cioè, cerchiamo un attimo di stratificare, di dare un po' più di complessità. Il discorso è, ok, la battuta è la lotta di classe, l'hanno vinta i padroni, va bene. Però è vero al 100% questa cosa? No, cioè siamo in uno spazio che non è questo, ed è pieno questo paese di lotte, che magari sono piccole parcellizzate, ma se penso anche soltanto su diritti sindacali, cioè i lavoratori della logistica, per dirne una delle varie a caso, sono anni che si fanno veramente un gran culo e ci danno. Cioè è una bella lotta. Leggevo oggi su Instagram una ragazza influencer che diceva: se il governo Meloni deve arrivare ad accettare un decreto sicurezza in cui non puoi più protestare, è perché evidentemente la gente protesta e gli dà fastidio, e quindi si inventa delle robe per cercare di fare in modo che la gente protesti di meno. Esatto. Per dare ragione al fatto che sì, effettivamente comunque qualcosa c'è, se no non lo reprimerebbero. E poi provoco in questo caso a pensare, non guardiamo soltanto che dal nostro lato, guardiamo anche da altri, cioè tutta una dimensione di reazione di destra su magari diritti civili, sul modo di intendere l'uomo nella società, c'è, mi sembra anche abbastanza forte, quindi qualcuno si muove anche in quel senso. Poi che noi li possiamo ritenere i nostri avversari e che vogliamo completamente andare da un'altra parte, ok, ma quindi è per dire, cioè, la società comunque si muove costantemente e i conflitti sono uno dei grandi motori. Davide, prego. mi fa, io ringrazio Zeno perché ha menzionato la questione della lotta nella logistica. Voi siete a 50 minuti di strada da Piacenza, che è fondamentalmente il centro, lo snodo della logistica italiana, e ad oggi la logistica è il perno su cui si muove il capitalismo negli anni 20 del XXI secolo. E, parlando di lotte, no, ci sono sindacati che stanno scoprendo comunque un sistema di sfruttamento talmente stratificato e talmente complesso, oltre al fatto appunto di aver approvato tutta una serie di decreti, come si diceva giustamente, che pensate che mi pare ormai sia 2 anni fa, un sindacalista piacentino venne arrestato per estorsione. In che senso? Perché secondo quale era stata l'accusa, poi ovviamente è stato liberato, perché persino in questo sistema non si tiene mai in piedi, lui praticava estorsione chiedendo alle aziende di rispettare bene o male il minimo dei contratti con i dipendenti della logistica, quindi lui estorceva così soldi alle aziende. Cioè, capiamo che siamo arrivati in un punto dove anche il minimo sindacale letteralmente non è più accettabile. Cioè, questo capiamo effettivamente che tipo di tensione ci sia, che tipo di lotte. Il fatto che le sentiamo meno è anche dovuto al fatto che parliamo poi di una classe operaia, noi siamo abituati ancora forse al proletariato da fabbrica, che è un segmento lavorativo che è stato praticamente smantellato, però si riforma in un'altra dimensione. Questo della logistica è uno, sempre in ambito quasi logistico, pensiamo alle lotte dei rider, no? È un altro settore che comunque sta dimostrando di poter chiedere di spingere tutte le lotte, poi giustamente come si diceva, ricollegandoci anche al discorso di prima, tutte le lotte dal basso, LGBTQ, ecologiste via dicendo. E giustamente si è sottolineato, se passa una legge in cui impensabile fino a poco tempo fa, come quella che si sta discutendo in questi giorni, voi capite che è ovvio che c'è ancora comunque, se non altro, il potenziale, se non effettivamente la lotta in vero e proprio, insomma, il conseguimento degli obiettivi, il potenziale ancora per intaccare questo tipo di, per quantomeno far ridiscutere questo tipo di sistema. Tra quello che diceva Davide, la domanda di prima tua, Gulli, mi è venuta in mente anche una cosa, la butto lì, provo anche in questo caso un pochino, ma vuole essere proprio uno spunto di riflessione. La storia magari può anche essere una zavorra, nel senso, se ogni tanto magari ci immaginiamo come un movimento di lotta, gli anni 70, ha voglia. Cioè forse non aiuta forse quella cosa, anche perché parliamo di un'Italia radicalmente differente anche da un punto di vista molto banale, che è la dimensione anagrafica. Cioè tra il finire degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 la generazione dei baby boom erano così tanti che le scuole facevano il doppio turno, c'era la scuola al mattino e poi c'era la scuola al pomeriggio, perché non sapevano dove metterli, da quanti erano. Quella ovviamente è una massa che, essendo giovanile, è energica anche, più sicuramente di quello che mediamente è un quarantenne, anche perché mediamente il quarantenne è più nel casino della sua vita personale, che spinge. Sì, erano tantissimi e spingevano, ed erano molti di più di quelli che avevano fatto la guerra, cioè della generazione precedente. Adesso la piramide demografica è completamente al contrario. Lo prendo come per pacifico questa cosa, anzi secondo me è anche bene che scendiamo un po' di numero, però sicuramente sono delle cose che influenzano, e quindi forse ogni tanto se si fa la misura di paragone con un periodo che al momento non può succedere perché il contesto è molto diverso, perché c'è una dimensione anagrafica oggettiva che è molto diversa, bisogna immaginarsi qualcosa di nuovo, ovviamente. Io ho un'altra cosa, una considerazione da fare su questa cosa che riguarda la diffusa percezione di demoralizzazione, piuttosto non voglia impegnarsi, non voglia partecipare, non essere presenti. È tutto vero qui, adesso, anche per quello che diceva Zeno adesso, ci sono meno giovani, quindi non si sente meno importante, che poi è fenomenale come le leggi di mercato insegnano che è un bene scarso di più alto valore. Invece magicamente quando sei giovane, siamo, pure che siamo pochi, siamo di meno valore ancora perché siamo pochi. Non contiamo un cazzo, perché a quel punto il mercato è quello elettorale, dove conti se sei fai parte di un gruppo esteso, tipo i pensionati che contano tantissimo, vabbè. La questione è che qui adesso il termine che usavi era non demoralizzati, ma disillusione, disillusi, è proprio così. Cioè, e di nuovo ne parlavo con un collega, mi spiace, tendenzialmente vivo al lavoro, porca madonna, e quindi sempre lì parlo di queste cose. Anche lui che veniva a un paese dell'est Europa, e lui rendeva questa cosa che capita spesso, se voi provate a parlare con persone dell'est Europa, che riguarda la visione dei soldi. Per loro i soldi sono una cosa molto importante, perché si sono trovati molto poveri in base al crollo del blocco sovietico, sono stati poverissimi e si sono incontrati, poi scontrati con un mondo dove invece i soldi contavano solo i soldi, perché nel nostro mondo capitalistico contano solo i soldi che hai, e loro invece avevano tutta un'altra scala di valori. A un certo punto, magicamente, pur non avendo avuto nessun tipo, cioè non abbiamo visto nemmeno gli stessi cartoni animati, io e lui abbiamo 8 anni di differenza, non è che... Però siamo stati d'accordo su una cosa, guarda cosa c'è in Palestina, lì c'è ancora gente che... ha vissuto magari 18 anni in una prigione di 2 chilometri quadrati, ha detto non me ne frega un cazzo, io piglio e vado, mi faccio ammazzare, perché il 7 ottobre la gente di Hamas, cioè andava a farsi ammazzare, ma ci credeva, perché alla vita non accettava più. Così come in Russia c'è gente che si va a far ammazzare e smettiamola di credere nelle favole di Putin, pifferaio magico, che convince magicamente i giovani russi ad andarsi a far ammazzare o gli punta la pistola alla schiena di ognuno, non è vero, è perché la gente ci crede, purtroppo, per fortuna la gente ci crede. Quindi la disillusione è qui, adesso, nostra, in Europa, in Italia, tra la gente di questa generazione. Non è così il giro del resto del mondo, anche perché noi abbiamo avuto gli unici 70-80 anni di pace in Europa degli ultimi 2000 anni. Nel resto del mondo è normale fare a cannonate per sopravvivere, perché è normale che ti abbiano ammazzato la famiglia, è normale che se fai lotta politica ti ammazzano, ammazzano con la tua famiglia, è normale che non hai soldi per mangiare quindi devi strappare qualcosa a qualcun altro, cioè banalità assurda, totale, incredibile, stupidissima. Ho fatto le ferie in Bolivia e in Bolivia c'è ancora gente che per vivere deve fare a macetate contro la giungla. Per noi è impossibile, e invece c'è gente che vive così. Quindi il problema è che noi viviamo ancora la nostra condizione come l'unica possibile considerabile. Dato che siamo disillusi noi, sono disillusi dalla Bolivia alla Cina, all'Australia, in Senegal, in Nigeria, dove l'età media è 18 anni, sono 180 milioni e tra 10 anni inizieranno a reclamare il loro posto nel mondo con la ferocia che che avranno persone che per anni hanno mangiato sabbia vivendo sugli isolotti fatti con la spazzatura, e loro non saranno disillusi, cioè avranno voglia di conquistare il loro posto al sole. Per cui, cioè, nel senso, secondo me bisognerebbe, ecco, noi siamo disillusi, altre persone no. Ecco, scusate, io sono riuscito finalmente a concludere la riflessione, mi ricordavo, forse è un bene che ci provino altri gruppi, altri paesi, altre persone con un colore della pelle diverso, persone con percorsi di studio differente, con pensatori di riferimento differenti, perché forse noi bianchi, colonizzatori, e mi ci metto dentro maschio, bianco, etero, cis, forse dobbiamo smetterla, levarci dalle palle e lasciare che qualcun altro ci provi, forse meglio di noi, forse partendo da punti di vista diversi da nostri, perché ha subito la colonizzazione fatta da persone morfologicamente come me o di anagrafica come me, per provare a creare un mondo diverso. Magari così, per cambiare un attimo punto di vista sulla domanda. Mi ricollego a quello che hai appena detto tu, Guglielmo, no? Proprio perché noi abbiamo... ogni anno facciamo un'agenda in calendario, quest'anno avevamo deciso come tema, così, insomma, di fare... diciamo lotte recenti, quindi tutte storie di personaggi, diciamo, che hanno avuto una loro vicenda dal 1990 in poi. Tu non puoi capire quanti attivisti ambientali che hanno pagato anche con la loro vita la loro azione politica ci possono essere tra Asia, America Latina, Africa e via dicendo. Cioè, parliamo appunto di persone che, cioè di attivisti che hanno creato, cioè hanno compreso quanto la salvaguardia dell'ecosistema per loro è vitale, non un ambientalismo, diciamo, da giardino, no? da sfizio, ma invece hanno preso il lato proprio vitale dell'ecosistema, hanno capito che la direzione verso cui andava il loro particolare ecosistema, sia in Guatemala, che sia in Indonesia, che sia in Brasile, fondamentalmente era messo a rischio da uno sfruttamento, insomma, capitalistico come dire, che quello che noi in Occidente ben conosciamo, e hanno lottato fino a morirci per difendere. Quindi effettivamente ti ringrazio, perché poi vengono sotto, ci appiattiamo sul nostro, come hai detto giustamente tu, ma invece se ci affacciamo un po' in altre parti del mondo, vediamo come siano vive, siano soprattutto appunto movimenti che partono dal basso, movimenti che partono da chi vive quotidianamente un ambiente come le coste dell'America Centrale, dell'Amazzonia e via dicendo. E quindi, ecco, giustissima l'osservazione che hai fatto tu, noi abbiamo avuto una... pensavamo di dover cercare le storie con lanternino, ecco, per parlare dal punto di vista con i belli, invece ci siamo trovati questa caterva di storie che possono essere raccontate in tema di, vi ripetisco, dal 1990 a oggi. Innanzitutto io passerei all'ultima domanda, poi in realtà se volete intervenire tutta la vita, naturalmente. Parlando di storia, c'è cioè quel maledettissimo articolo universitario, il male in terra, la fine della storia di Fukuyama, che alla fine, cioè dopo il crollo dell'Unione Sovietica, diceva va bene, è finita qua. Ora che è caduto l'ultimo grande oppositore del capitalismo, che era il sistema socialista, il paese del socialismo reale, basta, è finito, non c'è più niente. Ormai il mondo si deve capire che si strutturerà in questa maniera, che in quanto sopravvissuta, darwinismo sociale e tutto il resto, è per forza la soluzione migliore per vivere. E quindi economia a libero mercato, come si dice, sistema democratico rappresentativo, eccetera. Abbiamo visto che cioè, non è così, noi forse della questione di prima, di quando siamo disillusi, siamo cresciuti dentro e quindi alla fine ci hanno convinto che non c'è storia, non c'è possibilità di cambiare, questo è l'unico mondo che esiste. Nel resto del mondo, dove il programma di storia nella scuola non era scritto da un ministero che prendeva i soldi o che era manicato con gente dagli Stati Uniti, non la pensa così. Quindi la questione è, in questo momento è finita la storia, non è finita la storia, come si fa a far ripartire la storia? È una questione di narrazioni, cioè narrare storie diverse o cosa? Senza andare, giusto per fare, cioè così almeno apriamo il dibattito, così non nominiamo mai più Fukuyama per sempre. Grazie. No, diciamo che la fine della storia, cioè a me sembra quasi anche un po' strano doverlo dire, no, non è finita, cioè, ma come fai a pensare una roba del genere? Ma anche dal punto di vista nel campo degli esperti, diciamo, questa idea di Fukuyama è durata pochissimo, lui stesso l'ha rimangiata, sono messo passati 30 anni, invecchiata molto male, se pensiamo ai conflitti che tutt'oggi ci sono e che tutta la serata che parliamo, mi sembra neanche, forse anche ridondante dover dire no. La storia, scusa, cioè. No, ma io aggiungo anche un altro punto, nel senso sleghiamolo dal discorso che stavamo facendo prima, nel senso sulla nostra magari visione politica, i nostri desideri politici, ma negli ultimi anni, cioè parliamo degli ultimi 5 anni, cioè la storia sta andando avanti a una velocità surreale. L'anno scorso Borrell, l'alto rappresentante degli esteri dell'Unione Europea, ha tenuto un discorso davanti alla Commissione e Parlamento Europeo in cui ha detto: abbiamo fatto 3 errori, abbiamo delocalizzato, abbiamo acceduto la sicurezza agli Stati Uniti e abbiamo appaltato l'energia alla Russia di Putin. È il momento di far tornare l'industria in Europa, produrci l'energia da soli, pensare noi alla nostra sicurezza, cioè, per l'Unione Europea, piaccia o non piaccia, nel senso, al di là di quale che sia la nostra visione politica di questa cosa, ma è un cambiamento gigante. Cioè, l'Unione Europea sta iniziando a parlare di investire centinaia di miliardi per riportare qua industria d'alta tecnologia, eccetera. Ci sta iniziando la guerra commerciale con la Cina, cioè è un mondo, il mondo che contestavamo quando andavamo all'università sta morendo, cioè sta arrivando un'altra roba. La storia della Cina sta andando avanti, cioè, piaccia o non piaccia, nel senso la direzione in cui sta andando, non è questo il punto. Anche Davide, vuoi dire qualcosa? No, vabbè, sì, per me, ma fondamentalmente una tesima quella della fine della storia, tutto l'impianto Fukuyama è non imbarazzante, insomma, a quel punto agli occhi di chiunque abbia un minimo di spirito, ma neanche critico, di osservazione, mera osservazione, per me io non riesco veramente a concepire. E penso sia un po' un racconto appunto fatto dall'alto di chi se la canta e se la suona, insomma, e quindi è quello per loro. storia è finita, va bene, insomma. No, perché comunque anche loro, anche da un punto di vista all'altro dei super ricchi, sono diventati sempre più ricchi, quindi mi pare che la storia per loro sia proseguita nel migliore dei modi possibili. Non so se la considerano parte della fine o un possibile, come dire, spin-off, ma insomma, mi sembra sia andato abbastanza bene. Io veramente mi riallaccio a quello che ho detto a Roma, non so cosa altro dire, perché abbiamo sotto gli occhi dei cambiamenti esplosivi, ma anche gli anni 90, che sono considerati gli anni un po' del appunto in cui doveva essere più di moda questa idea, ma sono gli anni, diciamo, della dissoluzione della Jugoslavia, sono gli anni dello stabilirsi tutto un nuovo tipo di relazioni. È incommentabile, ecco, appunto, da chi un minimo legge la storia, Fukuyama, cioè, lascia il tempo che trova, onestamente. È un dissing a Fukuyama, cioè, dillo, cioè. Ho capito che basta, non devo più parlarne, erano dei cavalli di battaglia, parliamo di quanto era stronzo quello, basta, ormai non serve più, completamente, vabbè, va, fine. Basta. Norbi, per favore, basta, togli Fukuyama dalla lista dei nemici del popolo, tanto ormai si è fregato da solo, grazie. Poi quando hai fatto, parlami, c'è anche Darione, vero, nella lista. Ok, va bene, prego, ovviamente, ragazzi, chiunque voglia, un po' di domande, cioè question time con i compagni di Lapsus e i compagni di Cronache Ribelli, e, cioè, se no possiamo anche tranquillamente salutarci, dopo tutto, cioè, comunque un'ora e mezza che parliamo, cioè, delle cose le abbiamo dette, ecco. Pochino, dice Miriam, giustamente, a base. Niente, ci guarda confusamente tra di noi. Vabbè, allora, secondo me, senza insistere ulteriormente sulla situazione, vi ringraziamo tantissimo di aver partecipato. Minaccio Davide, che probabilmente Cronache Ribelli verrà in te, magari, chi lo sa, se è possibile, per fare un corso universitario più avanti, ma anche Lapsus, minacciamo un po' chiunque, anche voi, dopo tutto. Oh, vai, venite, iscrivetevi, se no veramente, soprattutto perché siete Milano based, anche se un po' sparpagliati, abbiamo capito, sarebbe bello che vi metteste a fare un po' di storia anche qua, insomma, sempre in giro, dai, va bene, no, grazie a tutti e a tutti. Noi dall'Umbria mettiamo un pochino d'arrivanza. Vabbè, dai, online, tanto ormai va di moda, dopo Pegaso facciamo anche noi. Va bene, grazie mille a tutti e a tutte per esserci stasera, ci vediamo sui banchi reali e fittizi dell'Università Popolare il 2 di ottobre, primo corso, iscrivetevi, Darione, vai, iscrivetevi, per favore, fai una cosa nella vita, cazzo. Mamma mia, sto centro sociale non fai niente. E basta, ci rivedremo sicuramente sulle barricate, tipo sabato 28. Cioè qualsiasi cosa, sabato ci vediamo lì. A posto, grazie mille. Cane? Grazie a tutti, grazie.